9 in punto. Di nuovo una buona giornata, gentili ascoltatori, e benvenuti a 9 in punto. Come già si diceva nell'anticipazione, oggi partiamo da una notizia di cronaca, se volete di cronaca politica, di un paio di giorni fa, ed è la decisione arrivata dal Comune di Bologna sul referendum che si terrà a proposito delle scuole paritarie, insomma le scuole private, per intenderci, per dirla molto semplicemente. Il tema è i contributi da dare a queste scuole e che devono arrivare a queste scuole. È stato promosso un referendum per abolirli, per toglierli, e questa promozione è andata a buon fine, e il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha indetto il referendum per il 26 di maggio, tra l'altro quindi non ottemperando, non rispettando quella che era la richiesta del comitato referendario, ed era la richiesta solo di una parte, quindi naturalmente è bene chiarirlo, di far tenere questo voto insieme al voto per le politiche, quindi il 24 e il 25 febbraio. Altro piccolo fronte di polemica, ma naturalmente quello che ci interessa è il tema generale, perché è un tema che comunque resta sempre sotto traccia. Già ci state scrivendo via SMS, su Twitter, ci dice per esempio appunto su Twitter Roberto: darei un voucher alle famiglie con scelta libera su quale scuola mandare i figli. Ci scrive Claudio da Milano invece via SMS: togliere i finanziamenti alle paritarie è cosa buona, giusta e costituzionale. Altri che sottolineano come invece le scuole paritarie siano in realtà una fonte di risparmio per lo Stato, insomma questi contributi sono ben investiti. Detto ciò, bisogna anche andare dentro queste cose e capire come poi vengono utilizzati questi finanziamenti, perché ci sono anche alcune regioni, alcuni luoghi, alcuni comuni nei quali questi contributi poi finiscono in una sorta di pioggia di aiuti, per cui servono ad abbassare le rette complessive, cioè di tutti gli studenti, senza per esempio tener conto del reddito. Di questi temi parleremo questa mattina. Elena Ugolini, sottosegretario all'istruzione, è con noi, buongiorno. Ci sente? No, è caduta la linea improvvisamente. Intanto saluto Francesca De Benedetti, che è portavoce del nuovo comitato articolo 33, che sono appunto i promotori del referendum. Buongiorno De Benedetti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. E buongiorno a Luigi. È caduto anche Luigi Morganò, il segretario nazionale della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne. Evidentemente abbiamo qualche problema col telefono stamattina, quindi iniziamo da Francesca De Benedetti, appunto portavoce del nuovo comitato articolo 33. Iniziamo dall'idea di promuovere questo referendum. Tra l'altro avete raccolto una serie di firmatari di tutto rispetto, no? Se non sbaglio c'è Margherita Hack, c'è Nadia Urbinati, insomma c'è un sacco di bei nomi. Ci spieghi come nasce e perché nasce? Il referendum nasce a Bologna, consapevoli che, come avete ben inquadrato voi, anche la situazione, il tema del resto complessivo. Però è significativo che proprio Bologna, che è stata all'avanguardia nella promozione della scuola pubblica dell'infanzia già negli anni 60, quest'anno nel 2012, nell'autunno 2012, ben 400 bambini sono rimasti esclusi dalla scuola pubblica dell'infanzia. Quindi si verificava il paradigma costituzionale rovesciato. Sappiamo che l'articolo 33 parla di diritto alla scuola pubblica per tutti, parla di libertà di insegnamento ma senza oneri per lo Stato. Qui a Bologna si verificava la Costituzione alla rovescia, nel senso che il diritto all'istruzione pubblica diventava un optional non garantito per tutti, e nello stesso tempo la scuola privata assumeva degli oneri per lo Stato. A questo punto si sono messe insieme numerose forze della società civile, dai singoli cittadini ai sindacati, a associazioni di genitori, mondo della scuola, semplicemente perché ritenevamo che fosse fondamentale, su un tema così importante, su questa direzione politica, che i cittadini potessero esprimersi. E quindi abbiamo proposto un referendum che chiede sostanzialmente ai cittadini bolognesi, in forma di un referendum consultivo, che è l'unico tipo di referendum che c'è nella città di Bologna, se ritenessero che continuare a dare quei soldi alle scuole private paritarie fosse la strada giusta per garantire il diritto all'istruzione, o se al contrario non ritenessero che quei soldi di tutti dovessero andare alla scuola di tutti, che è la scuola comunale e statale. Abbiamo raccolto tantissime firme, ne servivano 9.000 per l'indizione del referendum e ne abbiamo raccolte circa 13.000, quindi il 150% delle firme necessarie. Ne abbiamo consegnate e, come accennava lei all'inizio, abbiamo anche fatto una richiesta di accorpare il referendum con le elezioni politiche, per il semplice fatto che l'Election Day avrebbe garantito nello stesso tempo risparmio collettivo e una consultazione il più ampia e partecipata possibile. Il sindaco Merola non ha secondato questa richiesta, ma ha finalmente indetto il referendum per il 26 maggio. Ci sono reazioni sì a livello nazionale di personalità, tra cui quelle che citava lei, Margherita Hack, Landini, Nadia Orbinati e tantissimi altri, ma anche dei cittadini. Ci sono arrivati segnali di interesse da varie province di città italiane, Modena, Milano, Roma, le Marche, quindi la reazione e la sensibilità sono positive. Sì, in effetti dico, abbiamo deciso di fare questa puntata anche perché, ma già in qualche titolo di giornale si leggeva, il titolo era Bologna capofila del referendum per i contributi alle paritarie. Insomma, l'impressione è che l'esempio bolognese, viste anche le personalità che siete riusciti a raccogliere, possa avere un qualche seguito da parte di altre città. Veniamo all'opinione e alla visione opposta, quelle due voci che abbiamo recuperato finalmente, perché era caduta la linea, come avete sentito all'inizio, sono quella di Elena Ugolini, sottosegretario all'istruzione, che saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. E saluto anche Luigi Morgano, segretario nazionale della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne. Buongiorno Morgano. Buongiorno anche agli ascoltatori. Inizierei proprio da lei una risposta su questo referendum, perché poi ci sono sottese a questa vicenda, ci sono questioni ideali da una parte o ideologiche e questioni anche economiche. Prego Morgano. Allora, la prima cosa credo che vada la pena di ricordare di che cosa si sta ragionando. La scolarizzazione dell'infanzia nel comune di Bologna è realizzata attraverso la presenza della scuola comunale, che copre il 61% dell'utenza, della scuola statale il 18% e della scuola paritaria convenzionata il 21%. Il ragionamento di cui il referendum parla è un finanziamento che corrisponde al 2,8% delle risorse che il Comune destina alla fascia 3-6 anni nel Comune di Bologna, contro il 21% di scolarizzazione che queste scuole convenzionate assicurano. Mi preme anche sottolineare, come responsabile della Federazione Italiana Scuole Materne, che sono 27 le scuole convenzionate, di cui 26 aderenti alla nostra federazione e una no, che è una scuola steineriana. Quindi, come dire, non si tratta solo di riferimento a scuole cattoliche, ma è alla pluralità della presenza delle scuole paritarie non statali che operano a Bologna. Seconda cosa che mi preme dire è che queste scuole sono tutte paritarie, riconosciute come tali appunto con apposito decreto, fanno parte dell'unico sistema nazionale di istruzione che, come noto, è fatto dalle scuole statali e dalle non statali paritarie. Ancora mi preme evidenziare, perché la problematica è, come ha detto lei e come ha detto chi mi ha preceduto nell'intervento, è che è anche una ricaduta nazionale, che dopo la legge 62 del 2000 ci fu una richiesta di referendum abrogativo di questa legge, perché si erogano anche fondi statali a queste scuole, che è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con una sentenza che è la numero 43 del 2003, di cui stranamente, guarda caso, anche in questa circostanza non si parla, perché la Corte si è pronunciata in maniera molto chiara al riguardo, perché assume l'idea di fondo che è stata votata dal Parlamento italiano, che il sistema nazionale di istruzione, cioè che comprende le scuole statali, le scuole paritarie non statali, che sono quelle aderenti alla FISM sostanzialmente, gli enti, e anche quelle degli enti locali, perché anche le scuole comunali sono scuole non statali paritarie, è ammissibile e discende dall'interpretazione del quarto comma dell'articolo 33. Tra l'altro devo dire che insomma è noto che a Bologna ci sono stati in passato, sempre da parte delle associazioni che hanno promosso anche questo referendum, per ben tre volte ricorsi posti al TAR dell'Emilia Romagna, che li aveva poi passate la Corte Costituzionale, e per ben tre volte contro i contributi alle cosiddette scuole private, aveva sollevato quindi questa questione di legittimità, e per ben tre volte ha conseguito questo ricorso il medesimo giudizio della Corte, cioè che ciò che viene posto Morgano, la interrompo perché non vorrei tanto stare sulle questioni legali, per quanto importanti, per carità, e nemmeno tanto sulle premesse, nel senso che la domanda che le ho fatto è molto precisa, cioè io vorrei una risposta in termini da una parte ideali e da una parte economici, di funzionamento e di struttura, a quello che obietta il referendum, e se possibile abbastanza breve. Vabbè, prego. Molto breve. Il referendum dice in sostanza di togliere, come noto, il contributo a queste scuole per creare nuove sezioni di scuole comunali. A questo punto la domanda è molto semplice: il costo per quanto riguarda questo tipo di intervento, allora il contributo che viene erogato è di 1 milione di euro complessivamente da parte del Comune alle 27 scuole convenzionate, il costo alunno per il Comune di Bologna è di 6.900 euro, quindi 1 milione diviso 6.900 fa 145, resterebbero senza risposta di scolarizzazione, visto che frequentano le 27 scuole 1.736 bambini, 1.591 bambini. Credo che la risposta sia immediata. Ci sembra che la sua risposta sia chiarissima. Vogliamo sentire a questo punto la posizione del governo, per quanto sia, come ben sapete, un governo in scadenza, perché appunto tra poco ci saranno le elezioni. Detto ciò, però, insomma, c'è la visione dello Stato, di un anno di governo comunque con questo tema, che, ripeto, resta comunque sotteso, perché poi ogni volta si vara una manovra finanziaria, nella fattispecie ex finanziaria, adesso legge di stabilità, ogni volta entra naturalmente il rifinanziamento alle scuole paritarie e ovviamente ogni volta saltano fuori le polemiche. Allora, sottosegretario Elena Ugolini, lei come la vede da questo lato? Le chiedo un giudizio sul referendum bolognese da una parte e invece un ragionamento più generale, che forse è quello che ci interessa di più. Prego. Innanzitutto grazie per l'opportunità. In Italia abbiamo una legge, è stato ricordato, la legge 62, che è stata fatta in un governo di sinistra, era ministro Luigi Berlinguer, e questa legge dice sostanzialmente che il sistema pubblico di istruzione è formato da scuole statali, da scuole non statali che possono essere gestiti o da enti locali, per esempio le scuole comunali, o da private, ma a certe condizioni, per cui non parliamo di scuole private tout court, quelle che fanno quando parliamo di scuole all'interno del sistema pubblico di istruzione, ma di scuole che hanno certi requisiti per quanto riguarda i titoli di studio dei docenti, i contratti, le norme dal punto di vista della sicurezza e il trattamento degli alunni. Quindi noi abbiamo un quadro legislativo in cui pubblico non coincide solo con statale, ma anche con scuola gestita da enti locali o da privati che a certe condizioni erogano il servizio. Poi, andando a vedere l'articolo 33 della Costituzione a cui si fa riferimento, si dimentica sempre di notare una cosa. All'interno di questo articolo si dice che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione, che enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, e i padri costituenti specificano per questa sottolineatura che si parla della facoltà di dare o di non dare, cioè del fatto che non è che un privato alzandosi la mattina può chiedere necessariamente l'obbligo di finanziamento allo Stato, però poi si precisa, questa mi sembra la cosa importante, perché noi dobbiamo sempre guardare le cose dal punto di vista dei bambini e dei genitori. La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare alle scuole la piena libertà e ai loro alunni, questo è il tema, un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Ora, dal punto di vista legislativo, quindi, noi ci troviamo in una situazione in cui come Stato italiano, perché come governo siamo riusciti ad andare avanti nelle scelte fatte da Berlinguer, da Moratti, da Fioroni, Gelmini e Profumo, con il mantenimento di uno status quo, però come Stato italiano noi dovremmo poter garantire un'equipollenza di trattamento agli alunni che frequentano le scuole statali, le scuole comunali e le scuole non statali paritarie che rientrano dentro il sistema pubblico, questo anche per essere allineati all'Europa. Quindi questo è il tema di fondo, perché in Italia attualmente il milione di studenti che frequentano le scuole paritarie pagano due volte la scuola, con le tasse la scuola statale che non frequentano e con le rette le scuole paritarie che frequentano esercitando una scelta. Venendo invece al referendum, perché c'è proprio un'occasione concreta per intervenire su questo punto, il referendum, perché dobbiamo sempre partire dai dati, che cosa chiede? Chiede quali fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie sono più idonee per assicurare il diritto all'istruzione, A, utilizzarle per le scuole comunali e statali, B, utilizzarle per le scuole paritarie private. Allora, il segretario del PD Donini ha fatto un'osservazione perfetta, dice, è come se si chiedesse, si vuol più bene alla mamma o allo zio? Cioè noi sarebbe stato molto più interessante un quesito del tipo occorre dare le risorse prioritariamente alle scuole comunali e statali oppure in modo indistinto alle scuole con la stessa proporzione alle scuole statali, comunali e paritarie. Il tema vero è quello posto dal nostro sindaco Merola, io sono bolognese. Merola dice, io ho un obiettivo unico, importante e decisivo, far sì che ogni mattina un papà e una mamma che si svegliano per andare al lavoro possano portare un figlio nella scuola. E allora, chiudendo il ragionamento, in questo momento chi amministra la città dice attenzione a non mettere in difficoltà un diritto delle famiglie, perché se 1700 bambini delle scuole paritarie costano un milione, questi 1700 bambini se andassero nelle scuole comunali costerebbero più o meno 12 milioni di euro. È possibile far fronte a questa spesa garantendo un servizio? A parte poi il discorso proprio di principio, no? Dell'importanza di poter scegliere la scuola. Sì, ma infatti quello che ci interessa da questo lato è tanto la questione di principio, ma relativamente, perché quello che ci interessa davvero in questo momento è anche capire dal punto di vista tecnico se può essere una cosa veramente utile oppure no. Io voglio però sentire qualche ascoltatore e inizierei da Maria Rosa che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare questa osservazione. Perché i genitori mandano i figli nelle scuole private anziché quelle pubbliche? Allora, se li mandano perché ci sono più servizi, perché la scuola è migliore, allora perché non si investe nel pubblico per tirare le scuole pubbliche uguali come qualità e servizi alle scuole private? Due, se io mando invece nella scuola privata perché è una questione di elite, se io mi posso permettere un Panda e voglio un Mercedes, non deve essere lo Stato a pagarmi la differenza, devo essere io con le mie forze. Chiarissima Maria Rosa, voglio sentire anche prima della pausa altri due interventi, che sono due interventi da Bologna. Mario innanzitutto, buongiorno Mario. Buongiorno. Prego. Io sono in provincia di Bologna purtroppo, perché vuol dire che non potrò votare al referendum, non essendo nel comune di Bologna, ma voterei volentieri, perché la situazione della scuola pubblica è disastrosa. Non abbiamo un euro, le fotocopie per la classe dove va mia figlia alla primaria, le dobbiamo fare noi genitori, perché la scuola non può fare fotocopie non avendo soldi, e ci autofinanziamo tantissime cose. Io voglio dire una cosa, essendo una scuola privata, come concetto, è privata e quindi si autogestisce. Perché dobbiamo mettere soldi pubblici in un'azienda privata? Nella mia azienda privata non mi danno soldi pubblici. Seconda cosa, sono il 99% scuole cattoliche, ok? Per l'amor di Dio, nessun problema. Però che il Vaticano intervenisse e desse i soldi in Vaticano alle scuole cattoliche, perché dobbiamo darli noi? Grazie Mario, sentiamo anche Guglielmo da Bologna, poi andremo in pausa e voglio sentire un po' di risposte. Guglielmo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Io appena ho sentito che c'era la firma della HAC, ho detto ecco l'ideologia a piene mani. Ora, secondo me la questione è molto simile a quella dell'acqua pubblica, acqua privata. Vogliono l'acqua pubblica perché così fanno questi enormi consigli di amministrazione, li riempiono dei loro tirapiedi e dei loro politici falliti che sono stati scartati o per qualche motivo non hanno successo. No, non usciamo dal canale, Guglielmo, sappiamo qual è la situazione delle municipalizzate, sappiamo qual è la situazione delle municipalizzate, però non usciamo dal canale che stiamo affrontando, perché sennò, prego. Non sono uscito, ho fatto un paragone, ho detto qui siamo in pieno campagna ideologica, questa è la mia opinione. Chiarissimo, grazie. Noi adesso ci prendiamo una pausa, poi c'è anche qualche tweet che vorrei leggere, c'è insomma, qualcuno che ci scrive: private più efficienti, spostare tutto sul pubblico è un costo maggiore, ci sono ricadute occupazionali. C'è un noto parlamentare cattolico che non possiamo nominare perché siamo in par condicio, è peccato, che ci scrive: con le paritarie lo Stato risparmia 6 miliardi, comunque eventualmente lo trovate su Twitter, speriamo che non sia una violazione della par condicio pure questa, con l'hashtag 9 in punto. 9.30 la pausa e poi rispondiamo un po' di sollecitazioni dei nostri ascoltatori, che possono continuare a chiamare, naturalmente potete continuare 800 24 00 24. 9 in punto. E dunque rispondiamo a qualche sollecitazione ci è arrivata dagli ascoltatori. Inizierei da quella dell'ascoltatore bolognese, il primo che abbiamo sentito, Mario se non erro, che ci diceva insomma son private, punto, e bisogna far sì che chi ha i soldi se le paghi, punto e basta, e soprattutto eventualmente che se le finanzi il Vaticano, visto che per il 90% sono scuole cattoliche. Allora, con Luigi Morgano, che è il segretario nazionale della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, che è un'organizzazione di scuole cattoliche, come anche lui ha avuto modo di spiegarci poco fa, perché di quelle 27 toccate dal referendum a Bologna, una è non iscritta e alla vostra federazione ed è quella steineriana, le altre sono tutte cattoliche. Ci dia una risposta a questo ascoltatore. La cosa è abbastanza sorprendente, perché se non si parla delle cose guardando in faccia la realtà come sta, evidentemente si può trarre qualsiasi conclusione. Il nostro ascoltatore che ha detto, che ha espresso quella posizione, conosce che il 43% del servizio nazionale che riguarda l'ambito della scuola dell'infanzia è garantita dalle scuole paritarie non statali? Sono 660.000 bambini. Se vogliamo la piena scolarizzazione, che mi pare sia un elemento che nessuno mette in dubbio, e giustamente la sottosegretaria Ugolini ha ricordato la posizione del sindaco Merola dicendo: ciò che mi interessa è che tutti i genitori possono la mattina, quando hanno figli in età, collocare i loro stessi figli appunto esattamente in una scuola dell'infanzia. Come si fa a prescindere da questo tipo di presenza? Secondo luogo, davvero ritiene il nostro ascoltatore che questi 660.000 bambini appartengono a famiglie, tra virgolette, di alto reddito? Le presenze delle scuole nostre, della FISM, sono 8.000, sono in 4.800 comuni italiani. Quindi una presenza capillare, soprattutto nelle piccole realtà. La situazione socio-economica generale è nota. Per quale motivo, tra virgolette, questi cittadini che pagano anch'essi le tasse non dovrebbero essere in parte aiutati dallo Stato, esattamente per poter consentire loro senza differenze economiche in termini di principio, poi ci si arriverà gradualmente, di poter far frequentare la scuola ai propri figli a parità di condizioni con le statali. Secondo e ultima osservazione, in questo momento la spesa totale, dati 2012 del Ministero, ma il sottosegretario Golini può confermarmi, da parte dello Stato per il Sistema Nazionale di Istruzione, non solo le scuole dell'infanzia, supera i 58 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli interventi degli enti locali, quindi comune e provincia, secondo degli ambiti di competenza, al di là del diritto allo studio e altri interventi delle regioni. In questo ambito gli studenti che frequentano la scuola statale sono 7.865.000, 1.072.000 sono per le scuole paritarie. L'intervento economico che riguarda le scuole paritarie è inferiore ai 500 milioni di euro. Davvero qualcuno pensa che con questa cifra risolviamo il problema complessivo di tutte le difficoltà del Sistema Nazionale di Istruzione, o facciamo una scelta un po' più precisa e puntuale in cui tutti si risostiene e si individua come prioritario l'intervento su tutto il Sistema Nazionale di Istruzione, perché c'è una necessità effettiva e si guarda al presente e al futuro? Francesca De Benedetti, portavoce del nuovo Comitato Articolo 33, devo dire la verità che, pur mantenendo l'equidistanza che è giusto che abbia un giornalista, il ragionamento di Morgano e anche quello che ho sentito da altri ascoltatori che dicono, insomma, alla fine tutto sommato con queste scuole paritarie si risparmia, non mi sembra insensato. Ma guardi, subito dopo di me sono intervenuti la sottosegretaria Ugolini, che ha avuto un passato di preside in una scuola privata e che la pensa così da tempo. Evidentemente il governo Monti assume anche la sua posizione a favore delle scuole private paritarie finanziate dai soldi pubblici. Poi ha parlato Morgano della FISM, scuole private. Queste posizioni sono sempre state contro il referendum. Invece il referendum non è contro le scuole private paritarie. Nonostante le reazioni muscolari che il referendum ha suscitato in città, anche dal punto di vista politico, perché i finanziamenti pubblici alle scuole private sono stati votati con il favore sia del PD ma anche del centrodestra, noi abbiamo sempre fatto ragionamenti costruttivi, quindi è bene sottolineare qual è il cuore della questione. Allora, la scuola dell'infanzia riguarda i bambini, di cui abbiamo tutto il rispetto e la premura, ma è una scuola a tutti gli effetti. Per quanto non sia obbligatorio frequentarla, è obbligatorio garantirla. Allora, i discorsi che ho sentito da parte degli altri due interlocutori francamente mi preoccupano, perché apparentemente sono discorsi legati alla necessità di garantire quello che loro evidentemente ritengono un servizio e che noi riteniamo un diritto, ma che poi si rivelano in tutte le loro conseguenze anche culturali. Cioè, quei ragionamenti che Ugolini e Morgano fanno un giorno potranno essere applicati anche agli altri livelli scolastici. Quindi a maggior ragione questo ci invita a porre attenzione sulla questione referendaria. Allora, mi lasci dare qualche elemento. Quindi mi permetta De Benedetti, il ragionamento che state facendo è un ragionamento puramente ideale, appunto legato all'articolo 33 della Costituzione, perché, ripeto, dal punto di vista puramente dei numeri, il livello di esborso e quindi il livello di risparmio che si potrebbe ottenere, almeno a livello globale, ripeto, non mi sembra pazzesco rispetto a fronte di un servizio che viene offerto. Ripeto, senza prendere posizione, proprio guardando banalmente i numeri. Dunque, bisogna dare qualche elemento per valutare la cosa in modo sensato. Si parla di numeri, certo, però mi pare che ci sia un po' di confusione su questo, nel senso che il fatto che una scuola sia paritaria e che quindi rilasci un titolo che è equivalente a quello della scuola pubblica tout court non significa che una scuola privata, per quanto paritaria, sia la stessa cosa di una scuola pubblica. Nemmeno la legge 62 del 2000 dice finanziamo con soldi pubblici le scuole private paritarie. Una scuola privata paritaria ha diritto a un suo progetto educativo, che nella pratica si traduce in un progetto, nel 99% dei casi, confessionale cattolico, ma in ogni caso un progetto di parte. quindi un proprio progetto educativo. Allora, cosa è successo a Bologna? Che di fronte alla incapacità del sistema di accogliere nella scuola pubblica i bambini, si è detto: bene, a questo punto noi li mandiamo nella scuola privata paritaria. Quindi queste centinaia di bambini, secondo il governo della città, dovrebbero andare in una scuola in cui si paga una retta e c'è un progetto educativo di parte. Quindi il pubblico di fatto si sta spogliando della propria, del proprio dovere di garantire la pubblica istruzione. Ma io voglio venire al cuore delle argomentazioni di Morgano, perché Morgano mi parla di un sistema saturo, di un'incapacità del pubblico di garantire la scuola, però nei suoi ragionamenti si riflette anche tutta la consapevolezza che dobbiamo decidere in quale direzione andare. Allora, al di là delle emergenze, e io penso che in caso di emergenza a maggior ragione si debba investire nella scuola pubblica, nella scuola di tutti, in quale direzione vogliamo andare? Comitato articolo 33 pensa che la direzione non debba essere quella della graduale privatizzazione della scuola pubblica e del finanziamento pubblico alle scuole private. Pensa invece che ci debba essere una riflessione sulle priorità della politica e che la scuola laica, gratuita, di tutti e plurale debba tornare a essere al centro dell'attenzione pubblica. I costi, ma si può parlare di costi, senz'altro. Bisognerà allora dire che le scuole private paritarie ricevono soldi non solo dagli enti locali ma anche dalla regione e dallo Stato. Bisognerà dire che chi le frequenta paga una retta, molto spesso salata, pensi che si arriva a retta anche di 10.000 euro all'anno. Bisogna anche dire che c'era chi comunque avrebbe fatto quella scelta e sarebbe stato libero di farlo. Il pubblico deve garantire una scuola con tutti i crismi e ci riesce, perché stando ai dati per esempio dell'OCSE, in realtà in Italia la scuola pubblica è di altissimo livello. Il motivo per cui l'Italia poi scende nella media della qualità del sistema di istruzione è proprio che poi si fa la media col livello di qualità delle scuole private paritarie. I dati Istat dicono anche che nelle scuole private paritarie molto spesso, nonostante ciò che dice la legge di parità, non vengono rispettati i contratti collettivi di lavoro. Quindi quando si parla di costi bisogna poi comparare un pubblico che ti deve garantire il diritto all'istruzione plurale, laica e gratuita, con un privato che ti chiede una retta e che ti chiede di accettare il proprio progetto educativo. Chiarissima De Benedetti la sua posizione, poi voglio anche delle risposte dal sottosegretario Ugolini e da Luigi Morgano anche su questi dati, insomma sul livello e sulla qualità dell'educazione nelle scuole private e nelle scuole italiane in genere. Però abbiamo molte telefonate all'800 24 00 24. Iniziamo, mi sembra che la persona in attesa da più tempo fosse Andrea dalla provincia di Treviso. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. Prego. Ho ascoltato con attenzione, comunque anche l'attesa è stata utile per ascoltare Morgano e la De Benedetti. Io sono perfettamente in linea con Morgano, sono un genitore, faccio parte di un comitato di una scuola materna paritaria, e sottolineo il termine paritaria perché il termine privato viene utilizzato secondo me in maniera impropria, posto che poi la normativa del 2000 è stata secondo me disapplicata in termini di parietà tra il pubblico e il privato. Ma detto questo, e confermando perché più volte ho visto ed esaminato, anche perché di professione faccio il commercialista, e ho visto ed esaminato i numeri e non mi sembra una barzelletta quelli raccontati da Morgano, pur volendo considerare la posizione, la chiamo ideologica ma con rispetto, della De Benedetti, in realtà la scelta che fanno quel milione di bambini, e se riconduco alla realtà che conosco meglio di Castelfranco Veneto, 20.000 abitanti con 800 bambini che frequentano la scuola paritaria, se lei trova una soluzione nel breve termine possiamo fare tutti i referendum, ma mi dia una risposta. Qui il dialogo va benissimo, ma noi abbiamo bisogno di una risposta. Le risorse non ci sono, i numeri io li so fare, e non ci arriviamo con la massima volontà e disponibilità che viene data dalle scuole, che sono principalmente certo garantite dalla disponibilità soprattutto immobiliare della curia. Ovviamente senza di queste io non saprei dove questo migliaio di bambini circa, parlo del comune di Castelfranco Veneto, possano essere piazzati. Lo dico perché abbiamo in piedi un rapporto dialettico, non dico conflittuale, con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione, perché altrimenti vanno in piazza. Io posso essere d'accordo sulla responsabilità che si è assunto peraltro con la legge del 2000 lo Stato e che deve assumersi in termini di educazione, ancorché non obbligatoria all'infanzia. Ma prima vediamo le risposte, poi io sono disposto a scegliere un piano di offerta formativa laico, non cristiano, posso avere una fede confessionale mia, ma non mi dica che noi scegliamo una fede, un progetto confessionale cattolico alternativamente ad uno statale. Non c'è spazio nelle scuole statali da noi, non c'è lo spazio, quindi ce la possiamo raccontare, ma non c'è. Lei trovi una soluzione e io cerco di essere d'accordo anche sull'esame di questa posizione. Grazie. Scuso per la foga. No, no, grazie, grazie Andrea per l'accorato intervento. Sentiamo anche Giorgio che ci chiama, anche lui da Bologna, molti bolognesi che chiamano oggi, giustamente. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Prego. Dunque guardi, io vivo proprio di fronte a una scuola privata, famosa a Bologna, e 100 metri più avanti c'è una scuola pubblica, diciamo, no? Così. Cioè, lei non vedrà mai, scusi, sa, ma parlandoci terra a terra, lei non vedrà, lei nella scuola privata cosa vede qua, che tutti i bolognesi conoscono? Lei vede dei SUV, dei Mercedes, dei Ferrari, cioè il figlio di un operaio, che so io, di un fontaniere, non potrà mai avvicinarsi in questa famosa scuola privata. Perché come si dice a Bologna, i volla grena. Cioè, capito? Cioè, non vedo per quale motivo io devo andare. Si dice che la scuola è paritaria e che ci possono andare tutti. No, è la scuola privata. Davanti a me ci vengono solo la cosiddetta noblesse. Lei vedrà, appunto, tutto lì. Il resto sono tutte, naturalmente. Chiarissimo, chiarissimo, Giorgio. 9 in punto. Scuole paritarie versus scuole pubbliche con i nostri ospiti. Elena Ugolini, sottosegretario all'istruzione, vorrei che rispondesse un po' alla De Benedetti, che tra l'altro l'ha anche chiamata in causa personalmente, certo, in quanto ex insegnante in una scuola privata. Poi voglio sentire anche altri ascoltatori. Prego Ugolini. Allora, vorrei rispondere dicendo che sono d'accordo con la De Benedetti quando dice che occorre garantire il diritto ai 400 bambini in lista d'attesa nelle scuole di infanzia comunali di Bologna, perché se quelle famiglie desiderano che i propri figli vadano nelle scuole di infanzia comunali, questo diritto, che deve essere rispettato proprio per la Costituzione, per la nostra Costituzione, deve essere garantito. E io vorrei partire da qui. Noi come Stato dobbiamo favorire il più possibile la possibilità di scelta della scuola da parte dei genitori, ma dobbiamo soprattutto favorire la qualità della scuola. Noi dobbiamo tornare ad investire sulla scuola pubblica. Io non sono d'accordo sul fatto di far coincidere pubblico solo con statale, perché la Costituzione, con il principio di sussidiarietà, dice che Stato, Regioni, Comuni, Province devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. La Costituzione dice che occorre trattare nello stesso modo tutti i bambini, sia quelli che frequentano le scuole paritarie che le scuole statali. Quindi il pubblico non coincide solo con lo statale, coincide anche con scuole gestite dal comune oppure da privati che assumono le persone con dei contratti nazionali, che pubblicano i bilanci e che hanno certi requisiti. Detto questo, secondo me noi dobbiamo, come Stato, come Italia, investire di più sulla scuola, su tutta la scuola, sulla scuola statale, sulla scuola comunale, sulla scuola però, paritaria, per aiutare le famiglie. Sottosegretario, certo. Sottosegretario, mi permette di entrare su quello che secondo me è un nodo centrale, cioè non c'è certo anche un problema di come queste risorse che vengono date alle paritarie vengono utilizzate, perché mi dicono che spesso sono distribuiti a pioggia, cioè insomma alla fine finisce che vai a pagare 1.000 euro, faccio una cifra a caso naturalmente, è solamente un esempio, tanto per quello che ha una dichiarazione dei redditi da 500.000 euro all'anno, quanto per quello che ha una dichiarazione dei redditi da 16.000, e quindi non so come dire, l'accesso diventa un po' come quello che ci diceva l'ascoltatore bolognese poco fa. Ma in questo momento in Italia c'è una grossa disparità di trattamento anche dal punto di vista delle scuole nei diversi livelli, perché la scuola dell'infanzia paritaria prevede un livello di finanziamento che è più o meno di 700 euro bambino e abbiamo detto che uno stesso bambino in una scuola comunale costa 7.000 euro, no? Quindi c'è un contributo, però poi la famiglia ovviamente deve pagare una retta e per forza deve essere pagata una retta, perché altrimenti poi le scuole non possono pagare gli insegnanti che svolgono il servizio. E la stessa proporzione più o meno c'è nelle scuole primarie, ma nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola superiore il contributo medio dello Stato per bambino è di 100 euro, 50 euro l'anno, quindi sono delle cifre insignificanti. Io ritengo che occorrerebbe rivedere tutto il sistema, finanziando più soldi alla scuola nel suo complesso, perché la scuola è un investimento fondamentale per il paese, e tenendo conto poi del reddito dei genitori, in modo tale che le spese in istruzione che le famiglie sostengono possano essere dedotte dalle tasse. Io ho visto il redditometro e vedere nel redditometro inserite come spese e come indicatori di ricchezza le spese in educazione mi sembra veramente una cosa su cui dobbiamo fare un passo in avanti. Cioè lei le toglierebbe dal redditometro, sottosegretario? Sì, perché le spese in istruzione, in educazione dei genitori sono spese che servono al futuro del nostro paese e quindi devono poter essere dedotte. Noi dobbiamo aiutare le famiglie a crescere i figli, dobbiamo aiutare le scuole statali, comunali, paritarie a svolgere bene il loro servizio e dobbiamo tornare come paese ad investire più come scuola. Voglio solo ricordare questo, durante il governo Tremonti in 3 anni sono stati tolti alle scuole 8 miliardi e 400 milioni. E nel corso di quest'anno. Il lapsus governo Tremonti non era male, comunque prego. No, il governo Tremonti del MEF del bilancio pubblico. Sì, prego. Perché ovviamente il MEF è importante. Durante quest'anno, con il governo Monti, siamo riusciti ad arginare questo taglio, per cui alle scuole statali è stato fatto un taglio di 47 milioni, sarebbe stato meglio non farlo, però rispetto a quello che è stato fatto negli anni precedenti noi abbiamo messo un argine, ma noi in questo momento per il futuro, l'ho scritto oggi sul Corriere, dovremo trovare un'agenda comune tra tutti i partiti perché il nuovo governo investa di più in istruzione, investa meglio per garantire qualità e futuro ai nostri figli, perché altrimenti noi parliamo di cose che non stanno né in cielo né in terra, quando mettiamo in contrapposizione cose giuste. È giusto che una scuola statale abbia dei fondi, è giusto che un genitore che vuole iscrivere il figlio in una scuola comunale possa trovare il posto, però è anche giusto che una famiglia che desidera iscrivere una scuola paritaria possa essere aiutata, perché altrimenti un operaio non potrà mai iscrivere una scuola paritaria, magari se lo vuol fare, perché? Perché non è aiutato. Chiarissima la sua posizione, sottosegretario. Molti commenti ci arrivano anche su Twitter, l'hashtag 9 in punto, ci scrive Antonio per esempio: il privato mi assicura interlocuzione, elasticità, confronto, verifica sul lavoro, c'è un diritto di scelta da garantire. Ci scrive anche Rossano Salini, dice: nel resto d'Europa, soprattutto nei paesi scandinavi, c'è parità scolastica con consistenti finanziamenti pubblici. La citazione non è a caso perché insomma vengono visti i paesi scandinavi come paradisi del welfare normalmente. Vogliamo sentire anche qualche altra telefonata. Inizierei da Nicola che ci chiama da Rovigo. Buongiorno. Buongiorno. Sono prima di tutto un genitore, oltre a essere gestore di alcune scuole dell'infanzia con il nido in provincia di Rovigo e sono anche il presidente, quindi eletto dalle varie scuole della provincia di Rovigo della FISMA. Io credo che ho anche figli che fanno la scuola pubblica, la scuola statale. Io credo che siamo veramente di fronte a un'emergenza in questi anni e che vadano investiti molte più risorse nella scuola nella sua interezza, che alle famiglie interessi la qualità della scuola, sia che venga dallo statale, sia che sia cosiddetta privata. Credo che invece questo attualmente non avvenga e ci siano molte disparità nel trattamento dei comuni. Le faccio un esempio: a Rovigo, che è comunque capoluogo di provincia, ci sono 450 posti a nido presso le scuole. Di questi il Comune ne garantisce 170. Questi 170, ha fatto un articolo l'assessore al bilancio, costano 10.700 euro alla comunità. Gli altri 300 che garantiamo noi, e molti li garantisco io personalmente, non costano nulla alla comunità di Rovigo. Ora Rovigo accoglie il 35% dei bambini in quella fascia d'età. Io credo che quei 10.700 euro dovrebbero essere messi a disposizione non di un'elite, il 30% dei bambini, ma dovrebbero essere messi a disposizione effettivamente alle famiglie più bisognose. Perché se no, per forza di cose, si creeranno delle disparità, si troveranno le scuole dove vanno coi SUV e quelli dove vanno solo da noi le persone islamiche. Vabbè, insomma, questo non mi sembra un problema gravissimo, insomma, il fatto, come dire, il tipo di religione alla quale appartengono i bambini che ci vanno. Non sto dicendo il tipo di religione, cioè, prima ci sono stati interventi si dice qui ci sono le scuole dove arrivano sub. Qui in provincia di Rovigo ci sono 70 scuole paritarie, ce ne sono 22 statali. Su 50 comuni lo Stato è presente, lo Stato e i comuni sono presenti solo in 15 comuni. Chiarissimo il punto, chiarissimo Nicola. Nicola, gestita dall'associazione dei genitori. Chiarissimo il punto, restiamo in Veneto con Matteo che ci chiama da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo appunto da Verona, sono il tesoriere di una scuola dell'infanzia paritaria. Mi sembra che a volte ci sia un po' di confusione, sembra che con questi soldi le scuole paritarie si possano permettere di spendere, espandere, di fare chissà che per dare chissà quali servizi a persone facoltose. In realtà non è così, perché non è ancora stato detto, per esempio, che le scuole vengono gestite completamente da dei volontari, per cui i genitori che hanno i figli all'interno della scuola, che mettono a repentaglio anche le proprie responsabilità, perché ci sono anche responsabilità penali sulla sicurezza e che in questo si sostituiscono allo Stato a costo zero. E senza dire appunto che l'obiettivo delle scuole primarie è quello di garantire un servizio a tutti i ceti, per cui alle persone che non hanno le possibilità, perché per esempio da statuto FISM vengono anche accolte persone in difficoltà a costo zero, per cui sostenute dalle altre famiglie, e sinceramente nella mia scuola io vedo poche Ferrari, ma vedo tante persone normali che portano i figli da noi, primo perché lo Stato, i comuni non riescono a fornire il servizio che diamo a noi perché non ci sono le strutture, secondo perché offriamo comunque, per esempio essendo noi gestori dei genitori che hanno i figli all'interno, si cerca di fornire quei servizi in più per andare incontro alle famiglie, tipo prolungare gli orari, tipo dare un'assistenza maggiore se ci sono dei bambini in difficoltà, per cui è un argomento molto ampio, e togliere questi contributi vuol dire far chiudere queste scuole, perché senza grazie, non ce la fanno. Grazie Matteo, la interrompo e purtroppo non abbiamo possibilità di avere risposte ai nostri ospiti, mi interessava anche sentire le vostre testimonianze appunto, che ringrazio Elena Ugolini, Francesca De Benedetti e Luigi Morgano per essere stati con noi, un ringraziamento alle ragazze del centralino, al solito Franco Piantanida preziosissimo, di là si scorda di darmi i nomi, grazie anche a Marco Tulli in redazione, Alessandro Marco Tulli, Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, per chi vuole ci sentiamo domani mattina alle 9 con, dopo il genere delle 9 con Vota Antonio, che ci occupiamo di social media e politica, altrimenti 9 in punto lunedì. Radio 24, la passione si sente.